Quanti sono gli indagati? Allora, allo stato attuale gli indagati sono 8, 6 che diciamo, hanno sulla base delle prime ricostruzioni delle responsabilità con riguardo a questo impianto di irrigazione che diciamo, serviva il fondo sovrastante rispetto alla linea ferroviaria e 2 sono i proprietari poi dei fondi interessati perché, come lei probabilmente sa, l'ipotesi che al momento stiamo seguendo e che appare la più verosimile è che ci sia stata una rottura, una perdita dalle tubazioni o dalle tubazioni dell'impianto di irrigazione appunto sovrastante alla linea ferroviaria. Quindi l'ipotesi di reato qual è? L'ipotesi di reato sono 3 ipotesi di reato, sono frana colposa, disastro ferroviario colposo e omicidio plurimo colposo. Si è arrivati all'iscrizione nel registro degli indagati di queste 8 persone in tempi molto brevi. Come mai questa velocità? Allora, la velocità è dovuta al fatto che abbiamo esigenza di procedere al più presto a una serie di consulenze tecniche di natura geologica e idraulica geologica per cercare di ricostruire i fatti e abbiamo ritenuto di iscrivere perché attraverso l'iscrizione diamo modo alle persone che di prima battuta appaiono poter avere una responsabilità nei fatti di munirsi di difensore e di partecipare alle operazioni con propri consulenti così da permettere una ricostruzione anche diciamo, garantita rispetto a ai soggetti che sono indagati. Ecco, Che tipo di piega potrà prendere l'inchiesta? questo per me è molto difficile dirlo, nel senso che tutti coloro credo di poter dire che io anche sono tra quelli che sono intervenuti nell'immediatezza dei fatti, hanno avuto la sensazione che la frana avesse un collegamento causale con una perdita d'acqua prodottasi nel fondo sovrastante, però questa allo stato attuale è un'ipotesi che noi confidiamo con la consulenza tecnica, o meglio con le consulenze tecniche di poter chiarire. A seconda di come verrà data risposta a questa domanda, l'indagine può prendere pieghe diverse. Dopo l'incidente, diciamo, non si capiva subito da quanto tempo ci fosse stata questa rottura del tubo. Avete delle idee più chiare? No, ecco, anche su questo non abbiamo idee più chiare, noi confidiamo con la consulenza tecnica di avere un chiarimento, anche perché si tratta di capire se si è trattata di una rottura del tubo come parrebbe, oppure se vi è stata viceversa una fuoriuscita per altre ragioni dalle tubazioni, e poi si tratta di capire se anche vi sia stata questa fuoriuscita di acqua, se è stata di dimensioni tali da poter determinare, causare un fenomeno di smottamento così rilevante come quello che si è verificato. Sulla tempistica, quanto tempo ci vorrà per capire tutti questi punti chiarire questi punti dell'inchiesta? Ecco, noi domani effettuiamo questo sopralluogo unitamente ai consulenti tecnici. A esito della giornata di domani, saranno i consulenti tecnici a dirci, io mi auguro, diciamo, il tempo che è necessario per avere un quadro più preciso della situazione. Al momento sono nell'impossibilità di darle dei chiarimenti maggiori.